sull'imposta coranica, a zakà. Cos'è l'imposta coranica? L'imposta coranica è il terzo pilastro dell'Islam, e questo sulla base dell'insegnamento del profeta sallallahu alaihi wasallam, il quale ha detto: l'Islam si fonda su cinque: la professione di fede, che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è apostolo di Allah, il rito d'adorazione, l'imposta coranica, il digiuno di Ramadan, il pellegrinaggio alla casa, che è obbligatorio per chi ne abbia la possibilità. In cosa consiste l'imposta coranica? L'imposta coranica consiste nel pagamento al fisco islamico di una somma corrispondente al 2,50% del valore monetario equivalente o superiore al minimo imponibile di quattro cespiti patrimoniali, che sono l'oro, l'argento, il denaro e le merci, quando al termine di un anno lunare, 354 giorni dalla nascita del debito d'imposta, il patrimonio del debitore d'imposta risulti di valore equivalente o superiore al minimo imponibile, a prescindere dalle vicende patrimoniali durante il decorso dell'anno. Quanto è l'ammontare del minimo imponibile che fa scattare il debito d'imposta? L'ammontare del minimo imponibile che fa scattare il debito d'imposta è l'equivalente del valore monetario di 96 grammi d'oro sulla base di un insegnamento del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Perché si chiama imposta coranica? Il terzo pilastro dell'Islam si chiama imposta coranica perché nel sublime Corano ne è indicata la destinazione. Essa è destinata ai poveri, ai bisognosi, ai collettori dell'imposta, ai danneggiati nel loro patrimonio dalla conversione all'Islam, al riscatto degli schiavi, a sostegno dei debitori incolpevoli della loro insolvenza, alla causa di Allah e ai viaggiatori in difficoltà. Qual è lo scopo dell'imposta coranica? Lo scopo principale dell'imposta coranica è quello di promuovere la solidarietà nella comunità dei credenti, affinché tutti i membri della comunità abbiano i mezzi per soddisfare almeno i bisogni primari, come il nutrirsi, il vestirsi, l'avere un tetto, il curarsi, cioè di avere un tenore di vita dignitoso e possibilmente al di sopra della soglia della miseria. Affinché la comunità come tale possa soddisfare le esigenze collettive della sicurezza, della difesa, dell'istruzione pubblica, della illuminazione e della viabilità, il pagamento dell'imposta coranica, che si chiama anche zakà, purificazione, purifica l'anima dalla tendenza all'avarizia e rende lecito l'uso del patrimonio residuo dopo l'adempimento fiscale, per effetto della separazione da esso di quella quota che Allah ha ordinato di dare per soddisfare i diritti dei poveri. L'imposta coranica ha anche una funzione positiva sull'economia, in quanto promuove gli investimenti e i consumi direttamente, perché il divieto degli interessi e la falcidia annuale dell'imposta coranica rendono antieconomica l'immobilizzo dei capitali, e indirettamente perché la piena occupazione e la produzione di beni ne incentiva il consumo con aumento della circolazione del denaro e quindi del benessere individuale e sociale. Il fisco islamico si limita all'imposta coranica del 2,50% sui cespiti patrimoniali costituiti dall'oro, l'argento, dal denaro, dalle merci? No, c'è una imposta sulla proprietà di alcuni tipi di bestiame e di alcuni prodotti agricoli, un'imposta sul tesoro e sulle miniere. Cosa sai dire sull'imposta sul bestiame? Per il bestiame l'imposta è in natura e sono debitori di imposta i proprietari di cammelli, bovini, ovini e caprini, quando i capi superano un dato numero: 5 cammelli, 30 bovini, 40 pecore, 40 capre, e la quantità è in relazione al numero dei capi del branco di cammelli, dell'armento di bovini, del gregge di pecore e di capre. Per essere debitori di imposta, la proprietà del bestiame tassabile deve durare da almeno un anno. Cosa sai sull'imposta sui prodotti agricoli? L'imposta sui prodotti agricoli si limita alla frutta e ai cereali, e anche per frutta e cereali c'è un minimo imponibile, che è costituito da 630 litri. Per i quantitativi superiori il prelievo fiscale è di un decimo del prodotto se il terreno è reso fertile dalla pioggia o da sorgenti. Se invece i terreni sono irrigati artificialmente, il prelievo è di un ventesimo. Cosa sai sull'imposta sul tesoro e sulle miniere? L'imposta sul tesoro trovato sottoterra è di un quinto del valore, mentre per le miniere d'oro e d'argento l'aliquota è del 2,50% appena raggiunta l'estrazione del Nisab, mentre se si tratta di altri minerali il prelievo corrisponde al 2,50% della quantità estratta. Quali sono i beni esenti dal pagamento? I beni tassabili che non raggiungono il minimo imponibile, i beni mobili e immobili di uso personale, strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, pietre preziose, gioielli femminili, quando vengono posseduti e usati almeno una volta all'anno a scopo di ornamento e non a scopo di tesaurizzazione. In quest'ultimo caso sono soggetti al pagamento dell'imposta coranica. I crediti sono soggetti a imposta coranica se il debitore è solvente ed è in grado di mantenere l'impegno di restituzione o di pagamento del debito, l'ammontare del valore si somma al denaro liquido o al bene da restituire per il calcolo dell'importo su cui è eseguito il prelievo del 2,50%. Se il credito raggiunge il minimo imponibile e lo supera, su esso si applica l'aliquota del 2,50% quando il debitore d'imposta non possiede altro denaro. Se il credito non può essere pagato alla scadenza del debito per insolvibilità del debitore, l'imposta dovrà essere pagata al momento in cui il debito viene estinto. Cos'è la sadaca? La sadaca è una elargizione in beneficenza eseguita spontaneamente. Cos'è Zakatul Fitr? È un'imposta che i digiunanti nel mese di Ramadan devono versare per sé e per ciascuno di coloro che sono sotto la loro responsabilità alimentare prima del rito della congregazione solenne della festa della rottura del digiuno di Ramadan, nella misura pecuniaria equivalente a quanto necessario per un pasto, perché venga distribuita ai poveri nel giorno della festa. Se il versamento viene effettuato dopo il rito solenne, è considerato sadaca. Lo scopo della Zakatul Fitr è quello di purificare il digiuno da scorrettezze verbali e di dar da mangiare ai poveri, mentre il pagamento dell'imposta coranica ha fondamento in un precetto di Allah nel sublime Corano. Il pagamento della Zakatul Fitr è stato istituito dal profeta, che Allah lo benedica ed in gloria.